English Bit di Giulia Crivelli. Take. Moncler's latest collection offers an artsy take on your summer wardrobe. Questa settimana dedichiamoci a temi più leggeri del solito, prendendo spunto da un articolo di Rob Report, rivista patinata di consigli per gli acquisti, per così dire, riservati però a persone estremamente ricche, quelle che in inglese vengono chiamate HNYI, che sta per High Net Worth Individuals, uomini o donne con un alto valore netto, eufemismo per dire che dispongono di oltre $1 milioni di liquidità da usare come meglio credono. Il titolo dell'articolo suona così: la più recente collezione di Moncler aggiunge un tocco artistico al vostro guardaroba estivo. La prima parola che ci interessa è take, usato come sostantivo, non come verbo, che aprirebbe invece un piccolo universo di phrasal verbs. Rob Report usa take nel senso appunto di tocco, ma nel cinema viene usato al posto di chuck, ripresa senza soluzione di continuità. We managed to get it right in just 2 takes. Riuscimmo a farcela con 2 soli chuck. In senso più figurato, visto che letteralmente e principalmente to take significa prendere, si può dire what's your take on the plan? Cosa ne pensi? Che impressione hai avuto ricavato dalla presentazione del piano? A new take on the Romeo and Juliet story, un nuovo modo di presentare la storia di Romeo e Giulietta. Nel caso di Moncler, quello che Rob Report definisce artsy take è la collezione di capi sui quali sono stampate alcune illustrazioni di un artista francese. Ma vediamo altri usi di take. Il takeaway è la pratica di portare a casa del cibo acquistato in un ristorante. In italiano non si traduce neppure più. Let's have a takeaway tonight. Il take-off è il decollo, il take-over è il passaggio di consegne, ed entrambi hanno una forma verbale. The plane took off an hour late. L'aereo decollò con 1 ora di ritardo. Possibile anche l'uso figurato. The new magazine has really taken off. La nuova rivista sta davvero avendo successo. It has been suggested that mammals took over from dinosaurs. Secondo alcuni studi, i mammiferi presero il posto dei dinosauri. Wardrobe, infine, è il guardaroba e, come in italiano, per una volta indica sia l'oggetto fisico sia il complesso degli abiti e accessori che possediamo.